Io non penso che sia impossibile avere grandi impianti di lavorazione anche rischiose, e difendere l'occupazione e il fatto che noi abbiamo molta manifattura a livello mondiale. Io non penso che si risolva la questione a colpi di ordinanza della magistratura. Questa è la mia modestissima opinione, che però è quella praticata nel più dei paesi avanzati, che a quanto pare poi vanno meglio di noi. Chissà come mai, perché sono nelle mani di cosche mafiosi che avvelenano i loro cittadini, secondo voi, mentre noi staremmo invece nel bengo di realizzato dell'Eden dei diritti. Ma io non so, chi conosce il mondo sa che le cose non stanno così.